qua dalla postazione di visione del nord, dalla valle. Che succede? Insomma, in questo momento sono finiti i lanci di lacrimogeni, si parla di. Buonasera, buonasera. Beh, guarda, sempre qua da questa mia altura, dove insomma, beh, qui si domina la valle, posso dirvi che diciamo la stragrande maggioranza di coloro che cercavano di approcciare le reti si sono ritirate. E continua però vedo, posso da lontano vedo che continuano dei lanci di lacrimogene, gli ultimi fuochi in pratica. Pochi feriti, ho visto qualche ferito lieve, colpiti sempre da lacrimogeni, come sono ormai come di consuetudine lanciati ad altezza Duomo. Registriamo per ora due arresti, una ragazza e un ragazzo, nessuno che proviene dalla capitale, mi sembra che tutti coloro, se ce n'erano, quelli che ce n'erano, quanti ce n'erano, però sono diciamo tornati. Quindi questo per tranquillizzare magari chi da Roma è in ascolto. Niente, la giornata comunque ci sono stati parecchi, sono state aperte parecchie brecce, da quello che mi dicono, ovviamente era difficile capirlo dalla mia Perché le agenzie ANSA parlano di questi poliziotti, insomma, che gli hanno dato in dotazione questi occhiali a raggi infrarossi, insomma, che potevano vedere nella notte, per cui sono state individuate tutte le forbici, insomma, non mi viene il nome, e quindi non sono state tagliate le cesoie, grazie. E, no, e quindi non sono Non state. tutte, non tutte, vi posso Infine. dire che da quello che mi è stato riferito a fonti attendibili, così non è stato, insomma, alcuni varchi sono stati aperti, è stato qualche tentativo, anche comunque, non so se sentite, comunque Questi ancora dalla lacrimogeni, distanza sì. continuano ad esplodere lacrimogeni, c'è un grosso movimento comunque sia di forze dell'ordine sui bordi delle recinzioni, mentre però, come diceva, adesso c'è più un confronto orale, come dice, c'è un po' uno scambio di battute dalla distanza, ma non mi sembra che ci siano ancora in corso delle confrontazioni, almeno da questa angolazione, poi ovviamente dove sono io non è che si vedono esattamente tutto. Vedo che comunque c'è ancora un grosso movimento, come diceva, a ridosso delle recinzioni da parte delle forze dell'ordine, mentre diciamo buona parte delle persone dopo quasi 3 ore di attività, diciamo, sono insomma assai pure esauste, sono stati lanciati come al solito ovviamente migliaia di lacrimogeni di ogni genere, sono stati sparati diversi anche dall'alto, quindi presumiamo, questo qui non lo posso confermare, però diciamo, è stato stesso che lanciassero, che sparassero dall'alto del viadotto verso il basso, proprio in verticale, i lacrimogeni, ci fa presumere che abbiano chiuso l'autostrada. In effetti adesso guardando bene non Sì, vedo le nessun agenzie movimento danno che è stata sull'autostrada, chiusa. quindi Sì, da diverse ore è stata chiusa l'autostrada. Ah, ecco, Tanto per quel che grazie, per quel che ne sapete serve. più voi di noi su alcune cose, evidentemente. No, perché infatti ci conferma il fatto che sono stati sparati parecchi, parecchi lacrimogeni in verticale, e diciamo qualche ferito lieve da questi lanci, però per quello che ho potuto constatare finora nulla di particolarmente grave. Questo è quanto per adesso dalla Valle Clarea. Dove le Direi iniziative continueranno anche che domani, no? Cioè domani mattina prego. c'è questa polentata, comunque ancora Domani due si mangia la giorni, polenta, domani ancora si due mangia la polenta. giorni di E metro quindi per saranno metro. presenti come consuetudine famiglie della valle, gente di ogni estrazione, eccetera, ed età, a partecipare così a un incontro più conviviale, che poi ci saranno diversi incontri, anche delle iniziative. Segnaliamo apposta domani, intorno alle 17, anche un'iniziativa che riguarda la Palestina, dove verranno un po', dove sarà fatto qualche aggiornamento anche sulle ultime notizie relative al processo, che si è, diciamo, la prima udienza del processo che si è tenuto ai danni dei presunti assassini di Vittorio Arrigoni, quindi si farà un punto un po' su questa situazione, figura quella di Vittorio Arrigoni che qui in valle ha ha chiaramente colpito tutti e che, diciamo, è presente con immagini, con parole, con slogan, devo dire in modo sostanziale, è diventato inevitabilmente una parte fondante di questa valle che resiste. Quindi domani speriamo di poter raccogliere anche ulteriori informazioni su questo argomento. E niente, io direi che con questo possiamo salutarvi qui dalla Valle Clerea. Va bene, noi ci risentiremo domani. Se ci sono delle cose particolari, magari faremo in modo di segnalarvele, però direi che mentre prima sentivate ancora qualche esplosione di lacrimogene, adesso mi sembra che la situazione si sia definitivamente quietata.